tanto mi sono fatto. No, chi te aveva usato io da solo, chi vuoi? Io sono avuto. Ma da me, da chi vuoi? Non è niente. La sfina, Thank you.

Thank you. Thank you.